Ecco, allora io vi do il benvenuto. Di consueto iniziamo abbastanza puntuali con le nostre iniziative. E questa è una delle tante, direi, della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. I nostri appuntamenti sono sempre di solito a lunedì e a giovedì qui al centro Trevi. La nostra sede però è in via Mendola 5 ancora per un po' di tempo. E facciamo queste iniziative proprio per facilitare l'incontro con autori, autrici e il pubblico, per incentivare la lettura, incuriosire il nostro pubblico, ma anche per così affrontare dei temi che possano spingere poi ad approfondire l'argomento con delle ulteriori letture, che è poi il nostro così scopo principale, quello sempre di allettare, di incuriosire le persone e di spingere o di favorire la lettura, nella convinzione che un libro, un film, un dibattito, un incontro siano dei momenti un po' più lenti di informazione rispetto a quello a cui siamo abituati. E attraverso le suggestioni molto veloci dei media, che fanno sicuramente un grande servizio, ma che poi non ci favoriscono anche nella riflessione. La lettura è ancora un tempo lento che può aiutarci anche nella crescita personale e all'insegna della libertà. Quindi questa sera abbiamo con noi, e lo ringrazio, Marco Pugliese, è un professore di una scuola cittadina che da alcuni anni ci accompagna nella scoperta, nella conoscenza del nostro territorio. Abbiamo già affrontato parecchi temi storici in compagnia e con l'aiuto di Marco Pugliese, sempre accompagnato. Quello della Valdega, era sempre l'architettura del periodo imperiale, no, poi abbiamo avuto sempre sull'architettura bolzanina. Sì. C'erano quei due ingegneri che avevano. Sì, quello era il maggio di quest'anno, è vero, era una tesi di laurea premiata dalla biblioteca, sì. È vero. E comunque era, diciamo che sì, anche quello era uno degli argomenti che abbiamo affrontato. Abbiamo un pubblico attento che si ricorda. Ecco, quindi questa sera il tema invece è Bolzano, genesi di una città. Quindi torneremo indietro nel tempo, nel periodo austriaco, dell'impero austro-ungarico, vedremo quello che è stato invece il periodo del fascismo e poi quello che è stato il periodo successivo. Ne approfitto sempre anche per ricordarvi alcuni altri appuntamenti. Lunedì prossimo alle ore 18 sarà la volta della traduzione in italiano, della nuova traduzione in italiano a cura di Mariani, Max e Moritz, il libro di Vincent Busch. Ma lunedì prossimo alle ore 18 qui al centro Trevi. Poi giovedì 1 dicembre sarà la volta di Renzo Caramaschi, il nostro sindaco, che verrà qui a presentare il suo ultimo romanzo Un soffio di libertà, per accompagnato da Mara Daroit, che eseguirà alcune letture. E ne approfitto ancora per parlarvi di quello che sarà lunedì 5 dicembre, sempre alle 18, sempre qui al centro Trevi, sarà la volta della presentazione di un libro, Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine, un libro di Tommy Di Bari che affronta l'argomento dell'adozione. Ecco, dell'adozione qui in Alto Adige in particolare e in relazione anche a questi flussi migratori, al problema dei profughi, quindi un tema anche molto attuale. Vi ricordo che la biblioteca nella propria sede in via Mendola 5 organizza ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 16 incontri per così insegnare come usare la piattaforma BiblioWeb per leggere e scaricare giornali o ebook gratuitamente e da casa propria con lo smartphone o con un tablet. E direi che abbiamo esaurito, vero, l'argomento. Monica, ricordami se c'è. Ok, grazie. Vi lascio in compagnia di Marco Pugliese, grazie della vostra attenzione e presenza. Allora, intanto buonasera e complimenti perché oggi ho scelto una data un po' particolare perché si inaugura anche il mercatino di Natale, motivo per cui ho messo un articolo che avevo scritto perché me l'hanno detto dopo. E la conferenza inoltre casca o calza a pennello perché ci sono state delle polemiche anche recenti, politiche, no? È arrivato in provincia Juncker e quindi ci sono stati degli smottamenti a livello politico e insomma si è litigato come al solito per motivi etnici. Io ovviamente non potevo sapere in estate Forse un po' lo immaginavo che prima o poi qualcosa sarebbe risuccesso vicino alla lampada di Aladino, però casca anche a pennello perché calza a pennello perché secondo me a Bolzano e dintorni spesso si fa confusione con vari periodi storici, varie interpretazioni storiche e purtroppo su queste mistificazioni si costruiscono dei muri enormi tra i nostri gruppi linguistici. Se si vedesse la storia come costruzione ciclica tradizionale, forse alcuni problemi che ogni tanto vengono fuori in questa provincia potrebbero essere anche dribblati. Secondo me anche a livello storico, se si finisse probabilmente di avere paura solo a pronunciare il nome di Ettore Tolomei, ma se si studiasse un attimino meglio perché Ettore Tolomei aveva questo problema, perché secondo me era patologia, era una persona che aveva studiato in un certo modo in un certo periodo, però era una patologia a un certo punto, lui aveva una fissa, quasi una mania per l'Alto Adige, e secondo me storicizzandolo dopo 100 anni forse si andrebbero a capire anche certi ragionamenti che aveva fatto Tolomei. È tutto molto relativo in storia, in letteratura e soprattutto in storia, nel senso che noi siamo abituati, ecco per esempio questa è una cosa che io, questo titolo qui poi ma non vi racconto il mio articolo, ho preso questo spunto, tu cuoco e mercatino, perché il mercatino di Natale che nel resto d'Italia, e mi è capitato l'altro giorno di parlare con un politico non di Bolzano, che bello il mercatino di una vostra tradizione, in realtà è una tradizione a metà, perché sapete è nata nell'87, presa di sana pianta dal nord della Germania, da un assessore e portata qua a Bolzano, è diventata però patrimonio secondo me della nostra città, quindi non vedo, c'è anche un certo odio verso il mercatino quasi ingiustificato, ci sono problemi legati al traffico, però secondo me anche lì si fa propaganda etnica abbastanza inutile, quindi anche una tradizione di questo tipo che ormai ha quasi 20 anni, perché siamo nel 2016, può anche unire, perché quando si fa un giretto via mercatino si vedono persone italiane, tedesche, che si bevono qualcosa e non pensano sicuramente a Tolomei piuttosto che... E in un periodo come questo di social network eccetera è difficile anche arrivare alle persone in un certo modo, quindi è una conferenza così, è una cosa complicata, perché se a scuola sono obbligati, se devi prendere tu le persone inizia a diventare particolare, quindi tolto questo discorso qui, secondo me, io sono partito per caso, sempre da un mio articolo, poi arrivo alle foto, non vi preoccupate, da un mio articolo e da una cosa che avevo trovato abbastanza strana negli archivi dello Stato italiano. Siamo nel 1908 e purtroppo anche questo anno qui non è felice per il nostro paese, perché ci fu un terremoto devastante a Messina e in Sicilia, e ci furono i russi addirittura che aiutarono l'evacuazione della città eccetera, una nave russa, quindi fu veramente un periodo storico e complesso per il nostro paese, anche se in maggioranza dei libri di storia sembra una cosa così, un terremoto, 120.000 morti, se fate il paragone con quello che è successo quest'anno fa ridere, quello che è successo, ecco. Questo terremoto violentissimo è il 1908 e sapete perché ho messo la foto della Cassa di Risparmio? Perché negli archivi di Stato ho trovato un foglietto della Marina Militare Italiana, che a quel tempo si occupava di, cioè anche adesso se ne occupa per maniera diversa, di servizi segreti, e in pratica proprio a Bolzano una spia italiana per caso riuscì a intercettare un dialogo. Questa parte qui potrebbe essere inventata, nel senso che le spie avevano anche a quel tempo delle volte non raccontavano esattamente come erano andati i fatti, magari aveva avuto una storia con questa donna o chissà cosa, non si capisce bene. Questa persona comunque ha raccontato di aver parlato con una donna che era moglie di un alto dirigente della Cassa di Risparmio, che era stato a Vienna, e a Vienna praticamente nel cassetto del capo di stato maggiore dell'impero austro-ungarico, tal Konrad, e c'erano dei piani pronti per attaccare l'Italia, non per il terremoto in realtà, erano piani che erano nel cassetto ancora quando era stata firmata la Triplice Alleanza, che fu un'alleanza che in Italia venne presa benino, nel senso che una parte del paese la considerava un cappio al collo, perché c'erano delle zone come il Trentino, come Trieste, irredente, e quindi venivamo bloccati e non potevamo muoverci in quelle zone lì, e invece da altri, per esempio Crispi era considerato un triplicista, diceva no, lasciamo perdere, andiamo a espanderci in Africa, in Libia proprio, e lasciamo proprio perdere, sono discorsi chiusi, chiudiamoli qui. In quel periodo lì a qualcuno a Vienna venne in mente di tentare il colpo, nel senso, siccome il nostro esercito venne tutto spostato da nord verso sud per dare una mano alla popolazione, non c'era la protezione civile chiaramente, a qualcuno venne l'idea di provare di vedere, insomma, se c'era la possibilità di invaderci. Quindi avrebbero anche fatto velocemente, perché appunto tutte le difese del nord Italia erano praticamente impegnate, due armate vennero praticamente portate giù in Sicilia, la città fu anche ricostruita in parte dal genio militare, e perché gli austriaci non attaccarono, non fecero nulla? Beh, in prima istanza perché comunque quel periodo era un periodo anche di Baudat, come diremo adesso, nel senso che eravamo in piena Belle Époque, quindi sì, c'era una corsa agli armamenti frenetica, però sapete che per strategia militare più ti armi e meno guerre fai, cioè tu ti continui ad armare ma in realtà non vai in guerra, c'è cioè la deterrenza, io sono talmente armato che nessuno mi attacca. La Russia e l'ex URSS e gli Stati Uniti hanno fatto questo gioco per tutta la guerra fredda, e infatti non sono scoppiavano piccoli, cioè piccoli, medio grandi conflitti in giro per il mondo, però un confronto campale non lo scoppia mai. E certo, la soluzione sarebbe disarmare tutto il mondo. Se si disarma solamente uno stato in una zona critica, prendiamo il Pakistan, noi, se il Pakistan rinunciasse alla bomba atomica, l'India probabilmente invaderebbe il Pakistan. Quindi è abbastanza matematico, purtroppo. A quel tempo lì era uguale. Quindi l'Italia aveva puntato su una flotta molto potente nell'Adriatico, perché c'era l'impero austro-ungarico, e viceversa, si costruivano continuamente navi, corazzate, eccetera, eccetera. A Bolzano succede questo fatto, cioè che questo signore in pratica riesce a capire questa informazione e la trasmette subito al nostro contatto di Verona, che poi la trasmette a Roma, e quindi il nostro stato maggiore viene avvisato. In realtà un'azione venne fatta, cioè le armate di Torino, dato che la Francia rimaneva più tranquilla dell'Austria, vennero spostate nel nord-est, quindi non venne presa proprio. Io ricordo che quando questo articolo lo pubblicai su Facebook, uno storico e politologo mi disse: bello ma fantasioso. Sì, può essere che la spia si sia inventata il racconto, però che la nostra terza armata fosse stata spostata tutta a est, e l'ha fatto, quindi vuol dire che la fantasia nei nostri comandi, insomma, l'hanno comunque messa lì poi. Quindi anche Bolzano in quel caso lì mi aveva incuriosito, perché di solito quando si parla di spie eccetera si pensa a James Bond, si pensano a questioni un po' più vicine a noi, invece in quel caso lì le spie a Bolzano c'erano già, anche della Regia Marina, quindi dell'esercito italiano, insieme a quelle tedesche, e di spie tedesche e austriache eravamo pieni all'inizio della Grande Guerra, e stazionavano a Bolzano, come stazionavano, cioè quella italiana a Bolzano, e a Verona era un covo di spie austriache, che molto spesso erano italiani però. Infatti all'inizio della guerra molte navi, e ci furono parecchi attentati, anche questo pezzettino non viene mai raccontato nei libri, ma ci furono 107 attentati nei cantieri navali italiani nei primi 6 mesi di guerra. Furono state saltate per aria 2 corazzate, una rimase inservibile alla fonda, no? Si dice. E anche questa perché? Perché il nostro servizio di informazioni praticamente dava per scontato che gli austriaci e anche altre nazioni in guerra non avessero una rete così ramificata, insomma, in Italia. Invece gli austriaci si erano preparati da tempo, a differenza nostra, a cui eravamo, anche un'altra cosa non viene detta, a noi era morto il capo di Stato Maggiore praticamente 2 settimane prima dell'entrata in guerra, quindi ci toccò in omaggio Cadorna, che non era proprio un fulmine, cioè lui non credeva a queste cose, aveva una concezione ottocentesca della guerra, eccetera, eccetera. Quindi era qui per, questa era un'introduzione. È interessante questo palazzo, perché poi il fascismo lo modificò, la sua immagine e somiglianza, e non dico se è più bello o più brutto, la sua immagine e somiglianza. Secondo me anche questi discorsi devono essere lasciati un po' perdere, nel senso, magari per qualcuno è più brutto, magari per qualcuno è più bello, però è una questione estetica, ormai non è più politica. E quindi questo qui questa è una delle prime immagini da cui vorrei partire, per definirvi le tre epoche principali, insomma, in cui la nostra città è cresciuta. La prima epoca è quella di Peratoner, quindi questo sindaco di madrelingua tedesca, ovviamente, e che oltre a essere di madrelingua tedesca era anche pangermanista, quindi era iscritto al circolo pangermanico di Innsbruck e aveva come obiettivo la completa germanizzazione della provincia. Quindi anche quei pochi italiani che c'erano dovevano un po' adattarsi a questo tipo di politica. Non fu tanto tenero nella realtà con gli italiani, ci furono vari scontri tra italiani e pangermanisti, e a Bolzano abbiamo anche una scuola intitolata a un italiano che si batté parecchio contro questo tipo di pensiero, che è tal Tambosi. Il signor Tambosi fu un patriota non violento in realtà, perché non organizzò, ma neanche Battisti era un patriota violento, anzi era molto, molto morigerato come persona, e secondo me è coerente fino alla fine, nel senso che lui si arruolò nell'esercito italiano, ovviamente disertore per gli austriaci. Quindi qui queste figure non vanno giudicate o non vanno prese per motivi politici eccetera, vanno proprio storicizzate. Era una persona di tempi diversi dai nostri, con delle concezioni diverse di Stato, diverse di politica, perché era un socialista, era molto vicino a Mussolini all'inizio della carriera, nel senso che Mussolini aveva addirittura lavorato quando era ancora uno sbandato per Cesare Battisti, con una lettera, gli mandò una lettera dicendo guarda non so che fare, e venne assunto dalla redazione trentina del giornale in cui era direttore Battisti, e Mussolini avrà avuto tanti difetti ma era un bravo giornalista, infatti fece quasi raddoppiare la tiratura del giornale. Pensate che non fece successo con cose nazionalistiche, fece successo con dei racconti erotici che avevano come protagonisti le donne e il clero della zona. Venne cacciato perché considerato anti-austriaco, che era vero, perché poi stampavano pure i volantini, sapete, era una lotta come tante, lo facevano in Svizzera, stesso Mussolini conobbe Lenin, ebbero un amante in comune, eccetera, eccetera. Quindi insomma ci furono una serie di... Questo pezzo della storia del Novecento noi tendiamo un po' a dire beh è andata così, così, così, nella realtà non fu così, come un periodo a cui, se la Valeria me lo farà fare, dedicherò solo una conferenza perché merita una conferenza, e un altro periodo molto interessante fu la Drôle de la Guerre, cioè dal gennaio del 40 all'entrata in guerra dell'Italia. Ecco, aprendo gli archivi, che ormai sono non più segreti, non vi immaginate la fantascienza che viene fuori della serie Churchill che chiede all'Italia di entrare in guerra contro l'Inghilterra, di modo che se la Francia perde al tavolo della trattativa c'è l'Italia che è più morta della Germania. Questa è una delle tante. E queste tesi non è che sono tutte campate per aria, perché sapete che ci fu anche un altissimo gerarca nazista che provò ad andare in Inghilterra dopo a metà di quell'anno per appunto accordarsi con Churchill, ma poi la questione fu messa da parte. Churchill avrebbe preferito avere la Russia, cioè distruggere la Russia più che la Germania, l'aveva sempre dichiarato, poi di colpo chiaramente col discorso dell'alleanza. E uguale fu anche un po' la storia della nostra città, nel senso che è molto difficile in storia ragionare per buoni e cattivi. Vi faccio tre esempi. A scuola vi avranno raccontato, chi è andato a scuola, insomma tutti, avranno fatto la storia romana, e quasi sempre c'è questa congiura di Catilina. Ah, Catilina, tu ci hai fatto perdere la pazienza, tu Catilina. Catilina però era, tutti pensano che sia quello sbagliato, in realtà era quello che aveva ragione. Cesare fu ucciso, sì, tu cuoque, l'ha ucciso il figlio, il cinema Hollywood ci ha speculato, eccetera, però in realtà Cesare era quello che teoricamente noi chiamiamo tiranno, cioè chi l'ha ucciso voleva di nuovo una repubblica. E siamo a due. Augusto, beh, Augusto è praticamente l'immagine e somiglianza del regime fascista, al contrario ovviamente, cioè Augusto è riuscito senza televisione a far credere per millenni che il suo fosse il regno della pace, la Pax Romana, in cui ci furono più guerre nel suo regno che in quelle di Nerone, e fece credere a tutti di essere un grande amante della cultura perché aveva il circolo di Mecenate con i vari poeti, in realtà prezzolati per dire res geste, le gesta del divino Augusto addirittura. Quindi lui fece delle liste di proscrizione come tutti gli altri, come Mario e Silla, se volete qualche altro nome, e però lo fece in una maniera più elegante, cioè uccise Cicerone, ma lo fece uccidere ad altri e disse ma io non mi sono mai sporcato le mani, poi fece tornare la tradizione romana, eccetera eccetera. Mussolini, che era un autodidatta come Hitler, cioè siccome erano persone molto sbandate, tra virgolette, abbastanza sbandatelle, più Hitler di Mussolini, a dire la verità, passavano le proprie giornate nelle biblioteche a studiare a caso. Voi sapete, un autodidatta è difficile che arrivi. L'autodidatta non sempre capisce tutto quello che legge, e soprattutto, anche se è molto intelligente, ma se non ha una guida, non ha un maestro, non ha un qualcuno, non ha un Seneca, anche se anche lui non era proprio uno stinco di santo, rischia di leggere delle cose che diventano pericolose, rischia di fare interpretazioni, per esempio Nietzsche nazista, non è assolutamente vero. Quindi noi viviamo di queste misconcezioni continue. Un'altra misconcezione che abbiamo, io dico in Italia perché mi baso su programmi italiani, è il Pascoli. Se io adesso chiedessi a qualsiasi persona qui di media cultura, e che magari non sia proprio che abbia dei studi specifici sul Pascoli, chiedo: Pascoli D'Annunzio, chi è quello bravo? Chi è quello carino? Chi è quello che non faceva male a nessuno? Pascoli? Peccato che fosse un colonialista incallito che scrivesse su Corriere della Sera: la grande proletaria deve andare in Libia a ammazzare tutti perché noi siamo italiani e abbiamo diritto di avere un pezzo di terra oltre mare. Uno dei più grandi colonialisti che hanno scritto mai su un giornale italiano, Giovanni Pascoli. Addirittura ci fu un duello tra il Duca d'Aosta, c'è la via Bolzano, e un signore che scriveva per Le Figaro, che offese l'esercito italiano che fu sconfitto dagli etiopi ad Adua, e scrisse un articolo su Le Figaro. Questo signore era il conte d'Orange, e scrisse che praticamente gli italiani erano dei codardi. I Savoia si offesero per questo, e il Duca d'Aosta, anzi Vittorio Emanuele, a dire la verità, fu lui a avere l'idea del duello. In pratica lanciò il duello il nostro futuro re d'Italia, però in realtà andò a combattere suo cugino, perché non era, siccome era gracilino, insomma con la spada non era tanto bravo, andò al cugino, che invece era uno spadaccino provetto, sapete nella scherma siamo sempre stati bradini, e quindi sconfisse l'Orange e salvò. Ecco, Pascoli su questo scrisse molto più di D'Annunzio, che si limitò alla propaganda di guerra e a poco altro. Anche D'Annunzio dedicheremo anche lì prima o poi. Allora, io qui divido la storia di Bolzano in tre parti: la Belle Époque, cioè l'epoca di Peratone, di Peratone, il periodo fascista e il periodo repubblicano. Volutamente non ho messo le foto in ordine, perché a me non piace spiegare la storia in ordine di ciclo, perché è una cosa noiosa, pesante, e preferisco saltare da un'epoca all'altra, perché secondo me è più reale. Invece le cose in scala, cioè ricordate alle primarie, alla scuola elementare, alla scuola media o dove avete studiato, gli egiziani, sembra che muoiano tutti, arriva quello dopo, così non è tanto bello. In realtà gli egiziani sono stati anche contemporanei dei romani, eccetera eccetera. Quindi preferisco così. La prima foto che vi voglio fare, che a caso è venuta fuori, se si apre bene, è l'Aquila con i fasci di Tori, che era presente sul Ponte Druso. Allora, il Ponte Druso è un simbolo incredibile, cioè parlano tutti del Mussolini a cavallo, in realtà il Ponte Druso e l'Euroc sono peggio, però il Mussolini a cavallo è così, quindi fa più scena. In realtà il Ponte Druso è stato costruito per due motivi principalmente, il primo per un collegamento che serviva, il secondo perché avrebbe dovuto diventare uno dei punti principali, e soprattutto il fascismo si inventò, e qui bisogna dire si inventò, di sana pianta che Druso avesse fatto il giro da quella parte lì, nel senso il viale Druso dritta fino alla stazione e poi verso l'Austria. In realtà Druso non fece quel giro, probabilmente arrivò a Renzo, andò verso Renzo, poi tornò indietro, poi scavalcò la Conca e se ne andò verso la Germania perché aveva problemi di militari, non aveva molto tempo da perdere sinceramente a livello strategico con la Conca di Bolzano. E ne vennero scritte di favole negli anni '80 sia su Druso sia sui Reti, delle favole che poi si possono anche trovare in rete, per esempio che i Reti si tagliarono, ai Reti vennero tagliati i pollici per non poter combattere con i Romani e dopo che furono conquistati, tutte cose campate per aria. Nella realtà i Reti erano una popolazione come tante altre, non conosciamo il nome originale perché ce l'hanno detto i Romani, si chiamavano Reti, noi non sappiamo nemmeno da dove venissero, cosa fossero, che facessero, se non che coltivassero qualcosa e si scambiassero dei messaggi con questi famosi fuochi, no? Che lì nessuno ha mai fatto uno studio se capire se effettivamente questa tradizione che abbiamo qui possa effettivamente derivare. Cioè l'unico studio serio che io spero che qualcuno faccia sarebbe stato questo, invece si sono messi a fare delle cose abbastanza strane. Comunque l'aquila, questa è un'aquila romana, chiaramente è diversa da quella austriaca, è un'aquila, anche se quella austriaca deriva da quella romana. Poi ci sono i fasci vittori e poi c'è il basamento. Il Ponte Druso quindi è un salto dalla città vecchia alla città nuova ed è stato esattamente costruito per quello, grande, largo, si vede da varie angolazioni, si vedono le montagne in un certo modo se voi andate dall'Euroc, e poi c'è l'Euroc. L'Euroc è la chiesa del fascismo, ha un campanile vuoto, non c'è dentro niente, è stato progettato per pura simbologia. Mussolini aveva detto: per ogni campanile della Chiesa Cattolica, in quel caso, costruiremo un campanile del fascio, perché da lontano dovete capire che ci siamo anche noi. E quella è la funzione simbolica. Quindi a livello poi è fatta a forma di L dall'alto, quindi vittorio, e quindi ha una simbologia incredibile. Se poi andate dentro troverete anche altre cosette, nella parte che hanno demolito ce n'erano parecchie, poi la parte che hanno salvato ci sono, per esempio i muri si uniscono sempre a L, ci sono le stanze che sono i corridoi che erano a L, quindi tutta anche il Lido di Bolzano è una L gigantesca dall'alto, quindi è molto particolare la cosa. Ecco, qui siamo sempre in periodo fascista e questa è Piazza Vittoria. È Piazza Vittoria, che doveva essere la piazza del nuovo centro storico, chiamiamolo, perché il fascismo amava descriversi come se fosse già passato. E questa era, imitando Augusto, cioè Mussolini, sapete che anche intitolare le strade ai vivi, intitolare il foro, questo si chiamava Foro della Vittoria, perché non fu chiamato Foro Mussolini per vari motivi, ma in realtà qui dove c'è il mouse, in pratica c'è una colonna e questa colonna ha i caduti della Spagna, dell'Etiopia, eccetera, e qui sarebbe il Foro della Vittoria dedicato ai caduti delle guerre, ovviamente tutto in stile monumentale, il fascismo, c'è un bel libro che si intitola Fascismo di Pietra, è così, il fascismo si autocostruiva il regime anche con l'architettura. Il nazismo lo fece anche il nazismo, però il fascismo, a differenza del nazismo, ebbe proprio uno studio completo della propaganda da zero, cioè fu il primo regime mondiale, a parte che fu un regime molto particolare perché tenne il re e non successe, non ci sono, la diarchia si chiamava, quindi il re, e anche Bolzano fu in diarchia, il rione di Venezia, cioè il rione San Quirino, dedicato ai monarchici, il rione Vittoria, dedicato a chi lavorava per il duce praticamente, quindi tutto spaccato in due, tutto diviso in due, avevamo due capi di Stato, due eserciti, 40.000 polizie, 10.000, ok? In tutto questo non poteva mancare l'arco di trionfo, che è il monumento alla vittoria, che, di cui ne parlano. Hanno fatto, secondo me, a mio modesto parere, hanno fatto un bel museo, e il museo ha preso anche un premio europeo, e consiglio a tutti di andarlo a visitare. Ovviamente il monumento alla vittoria è pieno di simboli, di simbologia, e la vittoria scaglia una freccia verso l'Austria, ok? Il monumento è bianco, da dietro voi guardate il bianco del monumento, il rosso del Rosengarten e sono i colori di Bolzano. Non è casuale, è proprio Piacentini che ha studiato tutto nel dettaglio. E Piacentini era un architetto, ma era anche un artista. Sinceramente, a lui non è che interessasse, cioè interessava la politica, però gli interessava costruire. Quindi aveva delle direttive, però seguiva anche il suo istinto artistico. Ha preso i due colori della bandiera di Bolzano e li ha trasformati così. D'altronde, in un regime totalitario, non è che avesse grandi scelte. Sì, uno potrebbe dire, poteva rifiutarsi come Matteotti, però non siamo tutti eroi, e quindi ci ha lasciato. Ecco, il monumento è bene che l'abbiano aperto, è bene che ci si entri, che lo si guardi, perché è così che non si creano i miti negativi, in questo caso, perché stare dietro ai regimi morti tanti anni fa è una follia, in parte, insomma, secondo me, a meno che uno proprio non abbia delle idee oltre, ma non lo so, e quindi è molto bene che si vada a vedere, si vada a riconoscere, a conoscere. È sbagliato buttare giù, chiudere, mettere tendoni, secondo me anche mettere frasi che non c'entrano molto. Luce a cavallo si spiega chi è l'artista, perché è stato messo lì, è stato rimesso lì dopo la guerra. Io fino al 2010 Luce a cavallo a Bolzano non lo conosceva nessuno. Hanno fatto tutta questa mistificazione, adesso vengono da Predappio a farsi selfie con Mussolini a cavallo. Così va a finire quando non si fanno le cose fatte bene. Questa è un'immagine molto particolare della nostra città nel 1898. 1898, come vedete, questa è Piazza Verdi, che in realtà era il foro, era un foro anche quello, ma un foro boario, cioè si facevano le fiere con gli animali. Qui c'erano delle altre costruzioni che poi sono state demolite, non dal fascismo in realtà, ma dalla stessa giunta per Atone. Qui vedete che c'è il nostro Duomo, e questa praticamente è la Bolzano dell'architetto Altmann, che fu il primo architetto di un certo tipo, monumentale. Quindi anche lui, anche se non era fascista, era addirittura il fascismo non esisteva nemmeno, però lui aveva puntato molto sui monumenti, cioè in tutta Europa era di moda costruire monumenti, costruire caseggiati che ricordassero la forza dell'Europa antica. Quindi Germania, Francia hanno in quel periodo lì della Belle Époque. Ci sono due correnti: la corrente architettonica monumentale e poi c'è la corrente invece di slancio nella modernità. Quindi Bolzano, quel periodo lì, inaugura funivie, Trenini, nasce Max Vallée, che anche qui è uno scienziato che in pratica, pensate che Max Vallée a Bolzano non viene quasi ricordato, in realtà fu colui che inventò il razzo, cioè lui collaborava con von Braun e lavorava per la Opel, ok? Morì in un esperimento e von Braun prese i suoi disegni e gli venne in mente di fare le V1 e poi i razzi della NASA, il Saturn che andò sulla Luna, e soprattutto la NASA dedicò a Max Vallée un pezzo dello Space Shuttle. Lo Space Shuttle, quando è fuori dall'atmosfera, ha dei razzetti per muoversi, perché chiaramente non serve avere tanta spinta, e quei razzetti si chiamavano Valliers. Quindi, ecco, noi a Bolzano, ma chi se ne frega, tanto è una cosa da tutti i giorni, no, finire sullo Space Shuttle. Ce ne sono tanti qui che finiscono sullo Space Shuttle tutti i giorni. Quindi questa cosa qui, proprio come potete notare, è una cosa strana, no? Che non puntiamo su un personaggio neutro scientifico, cioè Max Vallée non aveva nessun problema etnico, cioè lui era tranquillo, era solo, a lui mi interessava solamente provare a volare con la fantasia, ma anche poi con gli esperimenti. Quindi questa è la Bolzano che accoglie Max Vallier, che è una Bolzano molto particolare, piccolina, ancora Gries non è diventata parte di Bolzano, Rencio per i fatti suoi, e quindi insomma è molto piccola, è concentrata qui nel centro storico. Ci sono i tram, non proprio in quell'anno lì, però inizieremo, e in questo anno qui, nel 1898, vabbè, a parte il primo campionato di calcio italiano disputato, a Bolzano ancora non abbiamo il Ponte Talgora come più o meno lo vedete adesso, perché è stato inaugurato nel 1900, infatti sono quelle date che piacciono agli studenti, perché 1900 il Ponte Talgora, 800 l'incoronazione di Carlo Magno, quindi sono quelle date che uno non può dimenticare. Questa è un'immagine carina ed è secondo me significativa, perché è la fiera di Bolzano nel 1948 che è fatta dove c'è adesso il tribunale. Quindi siamo in piena età repubblicana, cioè piena, appena iniziata l'età repubblicana, e ci sono gli alpini, e questa immagine è particolare perché ci sono tutte le bandiere, quindi la fiera è una fiera un po' ancora ancorata a dei vincoli ottocenteschi, nel senso che vengono montate delle funivie sugli Roma, delle seggiovie, insomma delle cose un po' fantatecniche, ecco, chiamiamole così. E interessante perché non c'è la foto, io non l'ho trovata, ma dietro di me in teoria ci sarebbe il famoso Mussolini a cavallo, che fu rimontato 4-4 nel 47, e nessuno in quel periodo lì disse dovevano finire il tribunale, l'hanno finito così, il palazzo di fronte l'hanno finito. Quindi vedete, le polemiche sono venute fuori quasi 50 anni dopo. Ecco, una cosa interessante, un'altra immagine carina è data piazza della stazione, vedete, qui ci sono ancora i binari da poco dismesso tratto della cremagliera del Renon, ricordate, partiva da Piazza Walter e andava poi fino al Renon. Da Piazza Walter poi partivano altri due tram, uno andava a Gries e l'altro andava a Laives, Burza. E anche qui andiamo a riscoprire cose. In questi giorni ho letto un articolo interessante che parla di studio di fattibilità del tram fino ad Appiano, gommato, non gommato. In realtà Bolzano ci aveva già tutto costruito, e qui bisogna dare atto a Peratone, perché Peratone era in quel periodo lì costruì tantissimo, la città era proprio un cantiere, venne sviluppata, però più che costruire edifici lui costruì trenini, treni, teleferiche varie, mise a posto la strada che andava in Valdega, con Renon venne fatto il trenino, e sappiate che a Renon non lo volevano, perché volevano rimanere isolati, non gli piaceva avere a che fare con i bolzanini. Anche Rencio si ribellò quando fu unito, ci fu proprio una sollevazione popolare, non volevano finire con Bolzano, e invece di Peratone ha deciso, sapete perché? Perché lui voleva che Bolzano diventasse una città con più abitanti, perché sennò la dieta austriaca di Innsbruck non se lo fidava nessuno, e quindi lui cercò di aumentare il volume di abitanti della città di Bolzano. Chiaramente Peratone, essendo un uomo dell'Ottocento, puntava su queste cose. Il fascismo invece fece diversamente, perché la concezione era più moderna della società. In realtà erano proprio due scontri, fu uno scontro proprio tra 1800 e 1900, secondo me. Perché infatti, vedete, questa è sempre un'opera di questa è la finura, sì. Ecco, vedete Bolzano, qui la vediamo. È molto, vedete, ha questa forma particolare, quasi a triangolo. Questa immagine è molto bella perché ci fa capire i dintorni che non sono sfruttati della città, perché noi abbiamo dei dintorni molto belli e molto interessanti, che potrebbero essere sfruttati anche a livello economico, non vengono sfruttati per vari motivi. E questa immagine, pensate, che è molto vecchia, e invece venivano sfruttati qui. Quindi non sempre il futuro riserva grandi novità. Ecco, questo è un palazzo, il palazzo del turismo, che poi diventò un cinema. Molti bolzanini, quando lo demolirono, io avevo 4 anni neanche, però ricordo, lessi poi i giornali molti anni dopo, però molti bolzanini in quel caso protestarono, perché erano legati affettivamente a questo palazzo. E qui ci si può ricollegare a un altro discorso, demolire, distruggere, eccetera. In realtà nessun Bolzanino era legato al palazzo perché era stato costruito in epoca fascista, era legato al palazzo perché era legato al palazzo, perché è diventato cinema e perché magari da ragazzetto aveva dato il primo bacio alla fidanzata sulle scale del cinema. Cioè, dobbiamo anche pensarla così. Sì, adesso ce ne sono rimasti pochi, ma se voi parlate con parecchi reduci, parlavate insomma, guerra d'Etiopia, eccetera, e molti ve la raccontavano come una, non una scampagnata, però comunque è una cosa divertente da raccontare, come chi ha fatto il militare racconta il militare. Perché? Perché erano ragazzi, erano 18 anni. Adesso immaginate un ragazzo di 18 anni preso, armato e mandato in guerra. Non è che abbia una maturità tale da capire cosa stesse facendo o non facendo. Quindi ognuno è figlio del suo tempo, si dice, quindi anche in questo caso le proteste. Questa anche è interessante perché ci fa capire l'espansione di Bolzano, qui siamo in epoca fascista, l'espansione di Bolzano con Corso di Libertà in costruzione. Allora, qui siamo verso Piazza Gries, come vedete c'è gran poco. Il fascismo aveva anche tolto il tram per allargare la strada, però poi l'ha rimesso, ha mantenuto anche le stesse carrozze, non avevano toccato più di tanto. L'unica cosa che fecero un po' particolare è rinominare il Gries, venne unito alla città di Bolzano e fu rinominato Tiberio, il quartiere Tiberio. Perché Tiberio? Perché Tiberio era un Tiberio detto il Germanico, perché lui fu il conquistatore, uno dei conquistatori della Germania, fratello di Druso. Ok? Druso, che mi ricollego un attimo, è un personaggio che di fatto fondò il primo nucleo abitato di Bolzano, che si chiamava Pons Drusi. Sulle cartine romane abbiamo quello. Il nome Bolzano, non so se qualcuno lo sa, ma deriva probabilmente dal latino Batium, che in realtà questo Batium era un personaggio che aveva servito nell'esercito romano, si era salvato dai 20 anni di leva e gli avevano dato un pezzo di terra qui. Quindi Bazio, Bauzanum è diventato poi, doveva essere il potere di questo Bazio. Questo è una delle fonti più accreditate, ce la racconta così. Quindi nacque come potere, probabilmente come stazio romana la città. Hanno anche ritrovato poi recentemente a Gries dei reperti interessanti, perché messi in quella posizione non lasciano tante interpretazioni, cioè l'abitato non era poi così piccolino come venne raccontato per anni, e soprattutto questa zona fu per larga parte amministrata dall'esercito romano, dal fiscus. Cioè, e c'era la caserma del fiscus, erano i militari che andavano in giro, andavano in nord Europa a riscuotere i denari, a portare i soldi ai militari che lavoravano sui confini e andare a riscuotere i denari delle varie province. Quindi la nostra provincia, l'Arezia, in quel periodo lì, e i romani l'avevano staccata dal nord Tirolo, cioè non l'hanno mai neanche preso in considerazione di attaccarla, perché le Alpi erano una barriera abbastanza grossa da superare, quindi costituivano un'altra barriera ulteriore alle fortificazioni. Quindi da un punto di vista prettamente strategico già i romani fecero come fecero a Saint-Germain dopo la prima guerra mondiale. Solo un pazzo, e vi garantisco pazzo, avrebbe messo il confine a Salorno piuttosto al Garda, perché a Salorno non riesce a difenderlo. Quindi purtroppo in quel caso lì prevalse la strategia militare, ma era normale, stiamo parlando del 1919, non c'erano tanti, c'era Wilson che faceva finta di essere, perché faceva finta di essere democratico con gli altri, poi a casa sua gli indiani non potevano fare niente, i neri non potevano fare l'università, quello non poteva fare niente, però era qui quello col righello che faceva 3.000 discorsi di pace. In Iraq però hanno tirato delle righe dritte, hanno diviso delle popolazioni e oggi ne paghiamo le conseguenze per quelle politiche. In quel caso lì l'Italia viene completamente estromessa, cioè i nostri governanti cosa fecero? prendiamoci pezzi di territorio perché ingrandiamo la nazione, ma hanno preso i pezzi di territorio sbagliati, quindi pezzi di Libia, pezzi di Etiopia, pezzi di Somalia. In realtà dovevano pigliarsi il, scusate, il non francesismo, l'Iraq, perché era pieno di petrolio, e infatti gli inglesi e i francesi si accaparrarono l'Iraq e iniziarono tutti i problemi che conosciamo, perché i problemi legati al Medio Oriente nascono, e avevo fatto una conferenza solo su quello, da questo discorso, e paradossalmente c'entra anche l'Alto Adige, perché se la delegazione italiana a Parigi avesse detto discutiamo un attimo una zona franca, avevano proposto una zona franca per l'Alto Adige, quindi un protettorato italiano e però gestito anche dagli austriaci, che poi col passare degli anni avrebbe dovuto prendere una posizione, uno stato cuscinetto come Liechtenstein, come Lussemburgo. E, no, e beh, all'Austria non è che piacesse molto questo discorso, preferì quasi lasciar perdere, cioè gli austriaci non la vedevano di buon occhio e nemmeno gli inglesi. E agli italiani poi però non convenne, perché chiaramente bisognava anche difendere i territori, ci volevano truppe eccetera, quindi venne preso il Brenner, però gli venne proposto lo stato cuscinetto e un pezzo di Iraq e si dissero di no. Quindi fu anche quello un discorso che non sembra, ma la geopolitica della zona dipende anche dall'Iraq. Questo è Corso Libertà in costruzione, quindi come vedete è stato completamente divelto, costruito ex novo, perché c'era una strada di campagna e il tram, non c'era altro. Il tram era stato costruito per portare i villeggianti nella zona termale, perché Bolzano era una località, no? Venivano i malati di tubercolosi, di tisi, eccetera, e alloggiavano a Griesta. E in via Fago passava il tram, era un'altra linea, quindi c'erano due linee del tram, ce ne erano quattro, e non erano poche, perché la città di Bolzano era piccolina, quindi non erano poche. C'era anche la cremaliera, sì, per andare al Guncino. C'era anche la cremaliera per andare al Guncino. Sì, infatti hanno tolto per esempio il Guncina, che era il terrazzo di Bolzano, no? è stata tolta la cremaliera, perché nel periodo in cui sono state tolte quelle si puntò tutto sulla gomma, e anche il treno della Val Gardena, e gli abitanti non volevano che lo togliessero, però l'hanno tolto. Purtroppo erano anni in cui si puntava tutto sulla gomma. Questa è la chiesa Cristo Re, che venne, vedete il campanile che è staccato dalla chiesa, questa venne progettata negli anni 20, poi fu completata dopo la guerra e avrebbe dovuto far parte del rione monumentale, anche lei era dentro nel rione monumentale. Il rione monumentale era tutto il rione Vittorio, quindi ricapitoliamo i rioni durante il fascismo: Gries era Tiberio e ci stavano gli abitanti di Bolzano, tra virgolette, di madrelingua tedesca, nel senso che rimase così alla fine, dovettero solo cambiare nome alle strade, eccetera. Il centro storico rimase più o meno uguale, il rione Vittoria, ve l'ho appena fatto vedere, il rione Littorio, che è via Torino, con questi grandi caseggiati, avrebbe dovuto dare ospitalità a il ceto medio, che però durante il fascismo il ceto medio adesso sarebbe il ceto basso, cioè quindi quelle persone che non necessariamente lavoravano nelle fabbriche, potevano fare altri tipi di lavori. I lavoratori delle fabbriche invece vennero messi a Rione Dux, che poi divenne Shanghai, che poi divenne Don Bosco, eccetera eccetera. E rimane fuori il Rione Venezia, perché il Rione Venezia fu esclusivamente monarchico, e i monarchici, da buoni monarchici, non vogliono abitare in case con fasci di tori, caseggiati, monumenti, vogliono delle case alla veneziana, che era lo stile che andava di moda, sapete, anche se voi prendete una rivista, l'avevo vista anche al Vittoriale, una rivista bellissima, aveva queste case tutte piene di oggetti, andava di moda l'oggettistica orientale, quindi Venezia perché è la città più orientaleggiante d'Italia, quindi anche durante il fascismo c'erano queste mode, erano pieni di carabattole nelle case, i ricchi soprattutto, e anche di cose portate dall'Oriente. Questa è un'immagine un po' bruttina, perché spaccò il cuore di molti bolzanini, è la demolizione del Palazzo del Ghiaccio, quindi ex fiera, perché la fiera che avevo fatto vedere prima non rimase al Palazzo di Giustizia, ma andò a essere costruita in via Roma, dove adesso c'è un supermercato. E anche qui si potrebbero fare dei ragionamenti, nel senso che forse si sarebbe potuto agire diversamente, magari mantenere una pista da ghiaccio e non farci giocare la squadra di hockey, però anche questo fu visto come uno scempio dell'architettura, del cuore della città, perché venne demolito e adesso ci sono degli edifici anonimi. Quindi è vero che il fascismo ampliò la città e di fatto andò a sradicare alcune cose che erano state costruite prima, però nella realtà dei fatti alcuni cambiamenti epocali vennero fatti negli anni 70 e 80 e i portici stessi furono, a mio avviso, rovinati negli anni 80, non negli anni del fascismo, perché negli anni del fascismo, tutto sommato, a parte la facciata della sparcasse tolsero anche la... Piacentini fece togliere la torre del museo, che poi venne ricostruita, perché appunto se no non si vedeva la questione che vi ho detto, e gli architetti, sapete, non guardano in faccia a nessuno. Ecco, qui è ancora il Ponte Druso, in epoca più recente, fine anni 60. Come vedete, il ponte è molto copiato dai ponti romani, con le aquile e i bracieri. Ok? Il braciere per il fascismo lo prese direttamente dal Tempio di Giano a Roma, quindi è proprio romano al 100%, il braciere lo accendevano a Roma anche i fasci littori, quindi quando dovevano portare qualcuno in Senato accendevano i bracieri, quindi se vogliamo proprio dirla tutta è peggio il braciere dell'Aquila, se non vogliamo dirla tutta. Adesso hanno fatto questo lavoro nuovo di restauro del ponte e hanno messo, sembra, dei bracieri. Quindi in realtà hanno fatto una roba che è peggio di quella che c'era, però io non so se sono architetti che lo fanno perché gli piace l'estetica, non sarei curioso una volta o l'altra di andarci a parlare, perché boh. Questo è Pascoli, che conoscete, quindi istituto magistrale, eccetera, eccetera, e è fatto a forma di abbraccio, perché comunque erano romantici, questa è una battuta, però comunque l'abbraccio è un simbolo di forza, di unione. Sapete che Mussolini, quando parlava, diceva noi, cioè ti voleva dare l'idea che c'era sempre qualcuno, era psicologica la cosa, noi, perché noi vincere, noi, quindi anche nell'architettura c'è un noi. Quello è un abbraccio simbolico, e durante l'inaugurazione nel discorso venne detto che era un abbraccio alle maestre, perché sapete, la riforma Gentile aveva rivoluzionato la scuola italiana, tuttora in vigore in realtà, perché l'impianto è rimasto quello, secondo me neanche tutto così da buttare, perché era un filosofo che aveva litigato con Croce, da quelle litigate erano venute fuori le riforme. Adesso siamo su un piano talmente basso che i litigi finiscono sui giornali con le foto scaricate da Facebook. Al tempo invece litigavano due filosofi e venivano fuori le riforme scolastiche, quindi non era tutto da buttare nel 18-19. Questo è l'Eurac, come vedete, questo è il campanile di cui vi parlavo, e questo è la L, però qui lo vedete meglio, questa foto qua lo vedete meglio. Allora adesso vi racconto questa foto. L, campanile, L, e questo è il sole. Perché ricordatevi che Mussolini non era cattolico perché ci credeva, ma per accordi. Lui in realtà probabilmente era ateo, o meglio, aveva una religione molto particolare, che era presa un po' da quella romana. Sapete, i personaggi delle volte si innamorano delle teorie esoteriche, quindi il sole Invictus, e qualcun altro in Europa fece il simbolo del sole, la svastica, che è un simbolo, in realtà lui lo ha girato, però è un simbolo indiano e anche sudamericano. Cioè, ci sono delle immagini che potete trovare su internet di medaglioni precolombiani con la svastica e di medaglioni indiani, degli India ovviamente, con la svastica. Perché? Perché c'era il culto esoterico, c'è tutto un discorso dietro. Il nazismo era molto esoterico, più del fascismo. Il fascismo era una religione di Stato, come il comunismo. Il nazismo invece era una religione, e basta. Quindi o credevi o non credevi. Libro, no? Il nazismo esoterico, sì. Proprio. C'è proprio un libro dove parlano di cose molto... Sarebbe interessante una volta fare un'iniziativa, però lì bisogna essere pronti insomma, a sapere delle cose che sui libri è difficile trovare, anche se storicamente sono valide. E l'Antartide, le missioni militari naziste e poi americane. C'è una storiografia molto complessa che poi qualche matto prende a pezzi e butta sui social network dicendo degli alieni. In realtà leggendo certi libri si capiscono alcune cose. Chiaramente la storia la scrivono i vincitori e quindi questi libri qui spesso sono lasciati nel dimenticatoio. Questa invece è la fiera, l'ex nuova fiera, Palazzo di Ghiaccio e Fiera. Bolzanini furono molto appassionati di hockey in quel periodo, anche adesso, però quel periodo lì fu interessante. E adesso ne salto solo qualcuna, ecco questa qui. La cremagliera del Renon, vedete, qui va verso Santa Maddalena, e qui siamo inizio 900, 905, ed è interessante perché la gente, le persone che lavoravano salutavano ogni volta che passava il treno, perché era una cioè, non è che vedessero grandi cose moderne, quindi il treno era un'attrazione, ci si fermava, qui c'è una donna, probabilmente stavano lavorando, vedete, si sono fermati per salutare. Questo carrettino che vedete dietro, sapete cos'è? Era un carrettino dove veniva messo il latte, dove venivano messe varie cose, insomma, che venivano poi distribuite durante il percorso, cioè c'erano delle fermate alternative dove si fermava la motrice. Questa per esempio è la motrice col carrettino, quindi non era una corsa ufficiale, era solo una corsa, tra virgolette, merci, piccole merci però. È una cosa carina perché se pensate che era un servizio pubblico, però che aveva anche questa doppia valenza. Vedete, qui parte la cremagliera proprio. E i trenini erano delle ferrovie austriache regalati dalla dieta di Innsbruck, furono regalati, praticamente regalati. Esatto. Ecco, questo è l'altro abbraccio. E questa è la fontana che c'è ancora adesso dei legionari. Attenzione, perché non sono legionari romani, ma sono legionari fascisti. Quindi la fontana, vedete che proprio è forte, ti dà l'idea di forza, compatta, rotonda. È rotonda ma sembra squadrata, secondo me, nel senso ti dà proprio l'idea che c'è qualcosa di importante, eccetera, come anche il corpo d'armata. Che è un bellissimo palazzo, è stato costruito con una certa intelligenza e ci sono delle scalinate con in mezzo Giulio Cesare, e voi vedrete, se vi capita di entrare, la scalinata di destra è tutta consumata e quella di sinistra e invece no. Sapete perché? Perché a destra ci andavano tutti i monarchici e a sinistra ci andavano le camicie nere, e siccome la caserma era dei monarchici, le camicie nere ci entravano poche. Perché sapete, c'era una grande rivalità tra l'esercito, cioè l'esercito dei Mussolini, che erano le camicie nere, erano considerati degli imboscati, dei villani. L'esercito, il Regio Esercito era l'esercito italiano che aveva vinto la prima guerra mondiale, quindi era un esercito prestigioso. Quindi chi aveva combattuto, chi era veramente convinto di essere un militare del Regio Esercito, si sentiva superiore alle squadracce fasciste che erano state inquadrate intelligentemente da Mussolini per onde evitare problemi della serie: non avete un lavoro, ve lo do io, non rompete le scatole e state a fare i militari. Questo era, furono inquadrate così. Questo è il Lido di Bolzano, che vedete che ha forma di L, tutta una bella forma di L, è anche la struttura ovviamente, e qui c'era la sabbia. E Mussolini volle il Lido perché disse che gli italiani qui non avevano il mare, quindi era giusto costruire delle piscine, eccetera eccetera. In realtà quella costruzione era molto all'avanguardia e fino agli anni, fine anni 60, fu tra i più grandi lidi d'Europa addirittura, cioè per una città poi come la nostra, insomma in mezzo alle montagne, la struttura fu qualcosa anche di bello, nel senso che fu sfruttata tantissimo dai bolzanini. Queste sono le passeggiate che noi adesso, io dico del Talvera, però in realtà siamo verso Sant'Antonio, e vedete qui ci sono delle case, e il fascismo questa casa qui non l'ha costruita ex novo ma l'ha specialmente ristrutturata, cioè ci ha messo dei simboli fascisti. E prima del mini golf, questa casa qui è un po' diverso perché poi è stato scavato. Qui è stato un po' spostato, non ci sono le siepi, e qualche casa è stata demolita, quindi è un po' diverso, però praticamente la passeggiata rimase quasi uguale al periodo Asburgi. Adesso vado un po' avanti. Questa è un'immagine molto particolare perché sono le truppe austriache il 6 di novembre del 1918. Dopo l'armistizio i soldati austriaci se ne tornarono a casa e l'esercito italiano arrivò dalla Mendola, le prime avanguardie arrivarono dalla Mendola e gli andò incontro una delegazione del comune con Vera Toner e praticamente venne chiesto agli italiani di fare in fretta a occupare la città perché gli abitanti di Bolzano avevano paura degli ungheresi. Siccome gli ungheresi erano personaggi razziati, secondo le cronache erano personaggi che razziavano, avevano rubato già della roba dai magazzini militari, preferivano che l'esercito italiano presidiasse determinate zone. Nel primo periodo di occupazione italiana vennero fatte delle pattuglie miste tra soldati italiani e soldati austriaci, però bolzanini, venne creata una sorta di divisione bolzanina, poi fu sciolta a fine del 18. E quindi il passaggio di consegne tra lo Stato italiano e lo Stato austriaco e quello italiano non fu doloroso in realtà, cioè la popolazione non si rese neanche conto, anche perché venne distribuito da mangiare, vennero aperti i magazzini militari distribuiti da mangiare e quindi la popolazione sinceramente era solo contenta che fosse finita la guerra. Non ci sono stati episodi né di violenza né niente, le violenze inizieranno poi dal 22, ma in realtà fino al 22 la popolazione sul tirolese si era anche in un certo senso forse non proprio rassegnata, però comunque era abituata. Bisogna anche ragionare che il sud tirolese, quando era sotto l'impero austro-ungarico, era dentro un impero con tantissime altre etnie, non è che erano austriaci e basta. Quindi addirittura tante volte lo stesso operatore litigò con Innsbruck, con Vienna, eccetera, perché non venivamo considerati neanche a quel tempo come autonomia, io avrei voluto più autonomia, poi c'era il Vest Tirol che ne voleva altra, eccetera. Quindi dovete capire anche che al tempo i sudtirolesi sono passati da un impero a un regno, cioè non è che c'erano grandi differenze. Se fosse rimasto il Regno d'Italia e basta, senza il regime, molto probabilmente la zona sarebbe stata amministrata come zona di confine, quindi ci sarebbe stato un rappresentante militare e poi che sarebbe diventato civile, però la zona sarebbe rimasta più o meno autonoma, anche perché non conveniva a nessuno mettersi troppo di traverso con popolazioni all'interno dei confini, perché a quel tempo si ragionava che la guerra la facevi ancora casa a casa, quindi avere una popolazione ostile all'interno dei confini era strategicamente una fregatura. E allora si cercò all'inizio, Credaro fu un militare, un commissario civile, scusate, molto intelligente, cercò di mediare, poi purtroppo il suo lavoro fu buttato via perché chiaramente arrivò Starace qui a fare confusione e poi la questione andò come andò. Questa è un'immagine anche significativa perché statua di Walter e i cannoni. Questi sono cannoni austriaci che poi venivano portati al fronte, siamo nel 1916. E questa foto qui è una foto molto particolare perché di cannoni in Piazza Walter non è che esistano tante foto che facciano vedere cannoni in Piazza Walter, quindi le truppe austriache usavano spesso Piazza Walter come deposito e anche questo fece arrabbiare Peratone, che bisogna anche essere onesti, all'inizio della Grande Guerra, quindi quando l'Italia era ancora neutrale, fece un discorso in Piazza Walter, in tedesco e in italiano, questo non lo dice mai nessuno, ma fece anche un pezzo in italiano, dove sottolineò che i sudditi di madrelingua italiana che vivevano a Bolzano, che erano circa 2000, tra cui mio prozio, non dovevano essere toccati, cioè erano sudditi a tutti gli effetti austriaci di madrelingua italiana e che non dovevano, nessuno doveva pensare di fare delle ritorsioni perché erano cittadini della città di Bolzano. Con questo, con questa uscita, secondo me cancellò tante schifezzine che erano state fatte, come la statua, perché la statua di Walter l'hanno creata apposta per, allora a Trento hanno fatto quella di Dante, quindi però diciamo che era un confronto ad armi pari, i pangermanisti, gli italiani, i pangermanisti italiani, cioè non c'era nessuno, sì magari qualche scazzottata la facevano, ma non c'era nessuno che andava in giro con la pistola, né tra gli italiani né tra gli austriaci, Le frizioni enormi furono poi durante il fascismo all'inizio, poi la cosa si placò e poi purtroppo il partito nazista durante le opzioni fece una propaganda anti-italiana con delle, anche delle bugie, dicendo che i sudtirolesi venivano, sarebbero stati mandati in Crimea, che sarebbero stati mandati, oppure che chi rimaneva qui in realtà l'avrebbero preso e mandato in Sicilia, delle cose non vere. E pensate che quei due anni, cioè secondo me l'Alto Adige ha pagato l'anno e mezzo, 38 fino al 39, quell'anno lì di propaganda del nazismo a livelli assurdi, e dal 43 al 45 quando ci fu poi il Hofer, che fu il Gauleiter, sì, insomma il capo di tutta la questione, esatto, non mi veniva il termine, e di tutta la questione, e che fece appunto andare persone a morire in Germania eccetera. Insomma, quei 4 anni lì hanno fatto peggio di tantissime altre cose che erano successe prima, perché anche con le catacombe in Schul ci sono rapporti dei servizi segreti italiani che possono essere letti da chiunque ormai, dove le autorità italiane sapevano perfettamente dove andare a prendere le persone. Se avessero voluto, le chiudevano tutte. Non l'hanno mai fatto, perché comunque non era, intanto non era intelligente andare troppo, anzi nel 1936 lo stesso Mussolini chiese che tanti podestà fossero di madrelingua tedesca, cioè siccome si rese conto che il partito nazista stava iniziando a esagerare, tentò addirittura la via di, e forse avrebbe anche fatto delle concessioni. Purtroppo anche Tolomei ebbe, e qui tutte le sciocchezze che sento di toponomastica, la grande colpa di Tolomei sapete quale fu? Fu che nel 1923 la delegazione tedesca con anche Peratone andò a Roma e parlò con Mussolini, la SVP del tempo, si accordarono e firmarono un contratto. Noi promettiamo che non faremo propaganda per tornare all'Austria, voi ci lasciate però un governo, una sorta di autogoverno, sì, con i militari italiani lì, però un autogoverno. Si trovò un accordo, venne scattata una foto che io purtroppo non ho, questo contratto venne firmato, e però dopo 3 mesi Mussolini fece finta che il contratto non ci fosse, praticamente l'accordo non ci fosse, e iniziò tutto il discorso che conosciamo di Tolomei. Sapete perché? Perché Tolomei si presentò da Mussolini pochi giorni dopo dicendo: ma sei impazzito? Gli vuoi dare la Repubblichetta? La chiamò la Repubblichetta. Gli vuoi dare la Repubblichetta? Questi hanno perso la guerra. Insomma, alla fine Mussolini fu convinto, perché poi era anche una persona che delle volte era molto superficiale, e lui fece 4 conti e la popolazione, insomma, gli italiani erano 8 milioni, questi erano neanche 100.000, quindi tutto sommato. Poi Tolomei diede anche dei consigli: fai in modo che Bolzano diventi una città da 300.000 abitanti, sposta la stazione dei treni a Ponte Roma, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Insomma, alla fine Mussolini disse: beh, in effetti, perché poi all'estero ci considerano, insomma, alla fine l'accordo saltò e lì iniziarono anche, ecco, quell'aspetto lì, gli storici. Io più che, cioè, le catacombe in Schule sono una cosa che chiaramente va studiata, va analizzata, però in realtà furono delle scuole clandestine dove i fascisti stessi, addirittura c'era un signore di Ponticino che mi raccontò che la moglie è morto nel 2002, che mi raccontò che la moglie del gerarca di Sarentino, che veniva da Viterbo, aveva il figlio che era amico dei ragazzetti del paese e che andava alla catacomba in Schul, cioè il gerarca, perché non si mettevano neanche a combattere una roba, perché se tu combatti una roba così incattivisci del tutto una popolazione, la vai a toccare nella sua lingua, nella sua, già non potevano ufficialmente parlare in tedesco, cosa che non era neanche del tutto esatta, perché alla posta il funzionario spesso era bilingue, perché sennò non funzionava lo Stato. Quindi infatti c'è un bel libro, cioè in pratica l'italianità venne portata ma fu rimasta un po' imperfetta, perché non fu mai del tutto compiuta, insomma. Ed è anche per fortuna, perché sennò sarebbe stato ancora peggio con le deportazioni. Ecco, adesso facevo ancora qualche immagine. Questo è il monumento ai Kaiserjäger, che sarebbe stato, questo era costruito al posto del monumento alla vittoria. Quindi durante la guerra erano convinti di vincere legittimamente, e quindi fu costruito questo monumento, che poi fu abbattuto, e per quel motivo il monumento alla vittoria fu costruito in quella zona lì. Questa è la statua del re Laurino quando era ancora alle passeggiate. Ovviamente sapete la storia del re Laurino, quindi per tanti ha un motivo, per tanti ha una simbologia molto forte. Io avevo scritto un articolo su questo, effettivamente Laurino e Teodorico, quello che lo schiaccia a terra è Teodorico, che è un barbaro, e Laurino sarebbe il latino, e insomma c'è tutta la storia. In realtà Teodorico, che aveva ucciso Odoacre, puntava al trono d'Italia, questa popolazione non si voleva, nella storia è successo qualcosa di simile, questa popolazione non si voleva sottomettere e in pratica la sottomise lui con la forza. E siamo dopo la fine dell'impero romano, quindi queste storie si perdono un po' nella notte dei tempi. Furono tirate fuori però da Peratone per creare propaganda pangermanista, insomma era così. Questo è ancora il monumento con dei vecchi caseggiati che poi sono stati buttati giù e demoliti. Questo è il municipio di Bolzano, fu una costruzione abbastanza particolare, nel senso che Bolzano in quella parte di città lì venne quasi ricostruita ex novo a fine dell'Ottocento, e venne lasciato però il palazzo che ci ha regalato la De Medici, quindi il palazzo mercantile, e perché appunto Bolzano anche in epoca molto remota aveva dei mercanti, funzionari eccetera italiani, e alcune famiglie italiane poi si sono tedeschizzate con i secoli, altre sono rimaste italiane, nel senso che parlavano in tedesco chiaramente, però erano comunque di origine italiana, per far capire comunque che era una situazione molto mista in realtà nei tempi antichi. Questo è il museo con i due tram, e il museo fu una costruzione proprio da Belle Époque, quindi a me fa venire in mente il dottor Livingstone, perché in pratica è questo periodo in cui vanno di moda i musei, vanno di moda le scampagnate dove ci sono le rovine romane. Ricordatevi bene che arriviamo da 700-800, quindi i giovani rampolli europei facevano il grand tour, che era una sorta di Erasmus fatto tutto in Italia, e Grand Tour lo fece anche Goethe, che si fermò a Bolzano, e quindi questo museo nasce proprio in quell'ottica lì, nell'ottica di questa è la prima stazione verso il sud. Esatto, quindi la Belle Époque a Bolzano l'abbiamo vista anche nelle costruzioni. Guardate che non è che ci sono tante città, non ci sono tante città che possono vantare 5-6 palazzi uno vicino all'altro di epoche così diverse. Se si parte dal Rinascimento, si arriva alla Belle Époque, dove ci sono tante testimonianze, poi c'è il fascismo, poi c'è l'epoca repubblicana, eccetera. Non è così semplice e così scontato trovare lavori di questo tipo. Poi questa è un'immagine anche significativa, il nuovo ospedale, sapete tutte le problematiche di costruzione che ci sono state, questo ci fa capire come la conca di Bolzano in epoca antica non è che fosse molto ambita, perché era un acquitrino e quindi molto complesso costruirci e non fu molto ambita. Ecco, adesso vado un attimo avanti, questa è anche una bellissima cartolina immagine, vedete? Sì, esatto, Gries. Questa parte qui, e qui vedete che la città comunque non è che sia piccolissima, quindi Peratone si era dato da fare, l'espansione l'aveva fatta anche lui, a modo suo, con le sue idee, ma l'aveva fatta. E adesso stavo andando un attimo, questa è una caratteristica di Bolzano, il mercato. È per quello che secondo me il mercatino di Natale non è una non tradizione, messo tra virgolette, perché comunque ricalca questa tradizione, queste tradizioni qui. Qui siamo negli anni 30, i mercanti sono quasi tutti in madrelingua tedesca, però perché chiaramente non furono importati operai e funzionari, però alla fine la terra rimase ai sudtirolesi. Si tentò con le semirurali di fare una cosa simile, ma ovviamente era un altro tipo di discorso, quelli erano operai che avevano un orto e basta. Ecco, questi mercati però rimasero anche durante il fascismo. Questa parte qui non venne né cancellata né distrutta, nessuno fu ucciso perché faceva il mercato, e quindi la tradizione è rimasta, è andata nei secoli. Questa era Bolzano che avreste visto anche nel 1700, nel 1800, con questi mercati anche un po' disordinati. Il mercatino di Natale, secondo me, è da prendere in quell'ottica, polemiche, l'ha fatto l'assessore, bla bla bla, però poi alla fine la cittadinanza, volente o nolente, si è un po' affezionata, perché abbiamo questa indole da mercato, abbiamo tutti questa idea di andare al sabato al mercato, cioè il bolzanino ha in testa questo mercato, anche quelli che non, come me, non fanno di lavoro, non fanno quel lavoro lì, non quel lavoro lì, però ce l'hanno in testa il mercato. E perché è proprio la nostra indole. Il fascismo ha cercato un po' di cambiare quell'indole là, ma chiaramente quando vuoi cambiare le cose troppo in fretta non ce la fai mai, e infatti si ritornò come prima, dopo non è che si ritornò parlando due lingue invece che una o una e mezza. Questa è Piazza Vittoria, ho preso questa foto, a parte il milite, che non è casuale che questo milite vada di qua, perché qui c'era un ufficio della Polfer tranviaria, c'era la Polfer e la milizia tram, quindi abbiamo due polizie per quattro tram. Il tram che vedete qua sta andando alla rimessa, la rimessa si trovava dove adesso c'è la Banca d'Italia, c'era, esatto, e poi c'erano anche gli autobus, esatto. Quindi questa è una foto un po' tra due epoche. Questo è il palazzo che è qui vicino in Piazza Domenicani, la piazza venne rifatta ex novo, non furono però demoliti edifici di grande importanza. Nel centro storico Piacentini addirittura si rifiutò di toccare i portici, e per fortuna, perché comunque sarebbe stato uno scempio mettere mano. Misero mano alla sparcasse. Vi faccio vedere ancora due o tre foto, poi concludo. Questa è bellina. Ah, sì. Il punto del vecchio ospedale centrale ci sono? No, perché avevo una panoramica ma non l'ho più trovata. Me l'avevano spedita e poi non so col sito cosa sia successo. Rarissime sono di quella parte lì, ce ne sono tante magari di punto del centro. Anche questa è abbastanza rara, perché questa è Piazza Don Bosco. È rara anche questa, non se ne vedono molte. Qui siamo negli anni appena costruita, siamo nel 40 qui, eh? Quindi questa è Piazza Gries, quando ancora si chiamava Franz Josef Platz, con i due tram che fanno capolinea, e la stazioncina del tram è qui dietro, e la vedete ancora oggi, che è mezza murata, non l'hanno tirata. Ecco, per esempio, dato che viene richiesto il tram, eccetera, non capisco perché nessuna amministrazione comunale abbia magari voglia di metterci qualche cartello, e, non so, il percorso del tram è tra delle stazioni storiche. Secondo me il tram è una cosa asburgica, quindi non è neanche pesante. Secondo me è su queste cose che bisognerebbe lavorare, non tanto sulle polemiche, sulle scritte, ma io ho il diritto di obbedire, di dire. Cioè lì bisogna, secondo me, uscire un po' da, perché sennò sembra sempre. In questi giorni, e poi concludo, su Facebook ho assistito a dei dibattiti tra italiani, tedeschi, dove ovviamente quando si vanno a toccare certi argomenti si passa al c'era prima di, insomma sono arrivati quasi all'homo habilis, c'era prima. Poi ci sono le follie, per esempio ho letto, ma che c'entrano i romani con l'Italia? C'entrano niente, gli italiani sono nati nel 1861, ecco, poi ci sono queste follie in Italia, che quindi bisogna cercare un attimino, grave quando lo fanno degli insegnanti, perché insomma se un insegnante dice che gli italiani sono nati nel 1861, secondo me deve cambiare mestiere, perché la nazione italiana è nata, Benigni gliel'ha spiegato tante volte, è nata qua. Probabilmente i nostri intellettuali del Rinascimento hanno preso quello che ci avevano lasciato i romani e l'hanno riportato di moda. Quindi e non è questione di fascismo o non fascismi, poi il fascismo ha giocato sulla romanità. Però a me viene anche da fare una battuta: mi trovate uno stato al mondo, uno che non userebbe la civiltà romana? È quasi la civiltà romana, Star Wars, che non c'entra niente. George Lucas era un appassionato di storia romana, l'impero colpisce ancora, l'ha preso dalla storia romana. In tutte le lingue capo deriva da Cesare, czar, Zar Cesare, da Caesar, in tedesco Kaiser, in tutte le lingue. E fino all'India addirittura ha superato Alessandro Magno Cesare. E sono esempi, secondo me, di un livello che noi abbiamo, un patrimonio storico-artistico che è una cosa che basterebbe un pezzettino per ogni lezione, i nostri studenti avrebbero da studiare, da andare a vedere. Cesare è un personaggio assurdo che andrebbe preso, ripreso, riletto fino a 30, come Gesù, fino a 33 anni ha fatto gran poco, dai 33 in poi però si è sbizzarrito. Infatti noi conosciamo la parte, no, finale della sua vita, più che altro è un personaggio che meriterebbe anche lui solo lui una conferenza, faremo anche qui. Milioni. Ecco, vi lascio con l'ultima foto, che adesso se la trovo, che è questa. Ho scelto questa foto qua per finale perché questa è una foto del 1920, però come vedete è una foto cartolina, è scritta in tedesco, perché è quel periodo dove ci sono i funzionari italiani, c'è Credaro, però l'Italia, il Regno d'Italia non ha nessuna intenzione di stare a distruggere, a fare, eccetera, ma vorrebbe agire in un altro modo, purtroppo non. Vedete che la mendola qui l'ha presa in un modo strano il disegnatore, però era così Bolzano, qui non c'è nessuna festa, ci sono delle bancherelle qui, delle carrozze qui, scusate, non c'è nessuna festa. Questo è il tram della linea che va, attenzione, che si fermava qui in Piazza Domenicani, faceva capolinea e andava a Bursa di qua, e questo è quello che andava verso Gries, la stazione era qua e qui partiva il treno del Renault, quindi non è da confondere. Lascio con questa immagine perché comunque un minimo di speranza in quella immagine lì c'era stata, insomma. Poi sono arrivati periodi molto bui sia per l'Italia sia per la Germania, e speriamo che adesso appunto non ci andiamo a incartare di nuovo in situazioni particolari, ma cerchiamo di essere un attimino appunto Bolzano, nel senso che abbiamo tutto il discorso, la città forse l'ha addirittura costruita un imprenditore, tale Bazium, che sarebbe un imprenditore, quindi secondo me proprio dobbiamo vedete l'anima del commercio, perché probabilmente questo Bazium aveva degli intralazzi qua nella conca di Bolzano, quindi probabilmente proprio il discorso del mercato, la città di fiere è reale, non è una cosa buttata lì, che già in epoca romana forse era venuta fuori. Quindi con queste digressioni anche storiche si può capire meglio la storia, e secondo me anche la storia non deve mai essere fatta la rivoluzione francese, si fa la rivoluzione, poi la applichi a quella francese e quella russa. Le repubbliche marinare o le città greche sono la stessa cosa, vai a spiegare perché hanno agito in quel modo lì. Quindi bisogna fare questi salti, e con questi salti è difficile che litighi, perché vai a prendere ogni pezzettino, cioè anche con il discorso degli Islam, arabi, eccetera. Noi abbiamo la lingua italiana che è piena di arabismi, tutta la parte nautica è piena di arabismi, quindi, perché i veneziani andavano in giro per il mondo. Quindi se noi ragioniamo in questa ottica qui è anche difficile stare a litigare. Abizzetta è una parola araba, per esempio, le staffe, cioè queste parole con le F, le al quando iniziano con la A. Quindi secondo me ragionando in questo modo trasversale forse si riuscirebbe anche, però ripeto, quando sono i politici a voler per forza andare a mettere i puntini su lei, purtroppo spesso vuol dire la popolazione ci casca. Grazie. Quindi buono, spero mi dia. Figlia di un funzionario italiano, il quale si è assorbito, e io me lo ricordo benissimo, la psicologia, che non solo fascista, che era fascista, perché se qualcuno lo vuole passare per lei, e nazista da italiano. Abbiamo, io sapevo, so ancora quando mio padre diceva a noi, non parlate tedesco, perché i fascisti mi tolgono il posto di lavoro, me lo ricordo io. Però qualche cosetta non era proprio. Beh, sa, bisogna, io mi baso sempre su dei racconti, quindi chiaramente. Se volete ci sono dei racconti in un senso o nell'altro, e si fa la media. Cioè, era la vita in un certo, senso certo. Più che i racconti. Grazie. Grazie a lei. se avete qualche domanda sono disponibile. Comunque io ho sentito anche ad altre sue presentazioni di questo genere, vedo che molto chiaro, limpido, e come dice sono tranquillo, grazie. Grazie. Non fa niente di vabbè, ma quello è relativo. Anzi, delle volte quando si insegna si è troppo schematici. Forse non è entrato in politica per quello, perché no, la politica. No, no, grazie. No, no, grazie. Mi basta scriverci ogni tanto. Grazie.